Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Traduzione di Vera Drizzo. Mentre i camerieri legavano il poeta con degli asciugamani, nel guardaroba si svolgeva una conversazione tra il comandante del brigantino e il portiere. «Avete visto che era in mutande?» chiedeva freddo il pirata. «Ma Arcibald Arcibaldovic», rispondeva il portiere pieno di fifa, «come faceva a non lasciare entrare il signore se è membro del Massolit?» «Ma avevi visto che era in mutande?» ripeté il pirata. «Mi scusi, Arcibald Arcibaldovic», diceva il portiere diventando purpureo, «ma che potevo fare? Capisco anch'io. Sulla veranda ci sono delle signore». «Qui le signore non c'entrano, alle signore non importa niente», rispose il pirata, incenerendo il portiere con gli occhi. «Invece alla polizia importa. Un uomo che indossa soltanto la biancheria intima può girare per le vie di Mosca in un unico caso, se è accompagnato dalla polizia e in un'unica direzione, al commissariato. E tu, se sei il portiere, devi sapere che vedendo un uomo del genere, il tuo dovere è di fischiare senza perdere un secondo. Senti? Senti che cosa sta succedendo sulla veranda?» Qui il portiere, quasi fuori di senno, udì arrivare dalla veranda un rombo, un fracasso di piatti rotti e grida femminili. Un quarto d'ora dopo lo stupefatto pubblico, non solo del ristorante ma anche quello sul viale e alle finestre delle case che davano sul giardino del ristorante, vedeva questa scena. Dal portone del Gribajedov, Pantalei, il portiere, un poliziotto, un cameriere e il poeta Ryukhin portavano fuori un giovane fasciato come un bambolotto che, piangendo a calde lacrime, sputava e cercava di colpire proprio Ryukhin e urlava in modo da essere sentito per tutto il viale. «Canaglia! Canaglia!» L'autista del camion, col volto adirato, avviava il motore. Vicino un vetturino incitava il suo cavallo picchiandolo sulla groppa con le redini color lilla e gridava: «Guardate che cavallo da corsa! Ho già portato gente al manicomio, io!» Intorno rombava la folla, commentando l'inaudito avvenimento. Insomma, uno schifoso, lurido, allettante, immondo scandalo che finì solo quando il camion portò via dal portone del Gribajedov il povero Ivan Nikolaevich, il poliziotto, Pantalei e Ryukhin. Thank you. Quando nella sala di accettazione della celebre clinica psichiatrica costruita da poco presso Mosca, sulle rive del fiume, entrò un uomo con la barba a punta e con indosso un camice bianco, era l'una e mezza di notte. Tre infermieri non distoglievano gli occhi da Ivan Nikolaevich, che era seduto su un divano. Si trovava lì anche il poeta Ryukin, estremamente emozionato. Gli asciugamani con i quali era stato legato Ivan Nikolaevich giacevano in un mucchio sullo stesso divano. Le braccia e le gambe di Ivan Nikolaevich erano libere. Vedendo il nuovo venuto, Ryukin impallidì, tossicchiò e disse con timidezza: «Buongiorno, dottore». Il dottore salutò Ryukin, ma intanto guardava non lui, bensì Ivan Nikolaevich. Questi sedeva del tutto immobile, col volto cattivo, le sopracciglia aggrottate, e non si mosse neppure all'ingresso del medico. «Ecco, dottore», cominciò Ryukin, «chissà perché», in un sussurro misterioso e voltandosi impaurito verso Ivan Nikolaevich. «Il noto poeta Ivan Viesdomny, ecco, vede, temiamo che si tratti di delirium tremens». «Beveva molto?» chiese il dottore tra i denti. «No, a volte beveva, ma non tanto. Da... Ha mai cercato di acchiappare scarafaggi, topi, diavoletti o cani che corrono qua e là?» «No», rispose Ryukin trasalendo. «L'ho visto ieri e stamane. Era perfettamente a posto». «Perché ha solo le mutande? L'avete tirato giù dal letto?» «Vede, dottore, è venuto così, al ristorante». «Ah?» disse il medico con aria profondamente soddisfatta. «E perché questi graffi? Ha litigato con qualcuno?» «È caduto da uno steccato e poi al ristorante ha picchiato uno e poi qualche altro». «Bene, bene, bene», disse il dottore, voltandosi verso Ivan Nikolaevich aggiunse: «Buongiorno». «Salve, sabotatore», rispose Ivan con voce forte e rabbiosa. Ryukin si vergognò al punto di non osare alzare gli occhi sul medico cortese, ma questi non si offese affatto e con gesto agile e abituale si tolse gli occhiali, sollevò la falda del camice, li ripose nella tasca posteriore dei pantaloni e chiese a Ivan: «Quanti anni ha?» «Mandate un po' tutti al diavolo!» gridò villanamente Ivan e gli voltò la schiena. «Perché si arrabbia? Le ho forse detto qualcosa di spiacevole?» «Ho 23 anni», disse eccitato Ivan, «e vi darò querela a tutti, e in particolare a te, verme», disse, rivolto personalmente a Ryukin. «Perché vuole querelarci?» «Perché hanno preso me, che sono sano, e mi hanno portato di forza in un manicomio», rispose Ivan, pieno di ira. A questo punto Ryukin fissò Ivan e si sentì gelare. Nei suoi occhi non c'era neppure un'ombra di pazzia. Da torbidi che erano, al Gribajedov, erano di nuovo tornati limpidi, come sempre. «Mamma mia», pensò spaventato Ryukin, «ma è proprio normale. Ma che sciocchezza, ma allora perché lo abbiamo portato qui di peso? È normale, normalissimo. Solo la faccia è piena di graffi». «Lei», disse con calma il dottore, sedendosi su uno sgabello bianco fissato su un lucido sostegno, «non è in un manicomio, ma in una clinica dove nessuno la tratterà senza bisogno». Ivan Nikolaevich lo sbirciò, incredulo, però borbottò: «Dio sia lodato! Finalmente trovo una persona normale tra tanti idioti, il primo dei quali è quel babbeo, quella nullità di Sashka!» «Chi sarebbe Sashka il babbeo?» si informò il medico. «Eccolo qui! È Ryukin», rispose Ivan e puntò il dito sporco in direzione di Ryukin. Quello arse di sdegno. «Che bella riconoscenza», pensò con amarezza, «per la mia premura. È proprio un tipaccio». «Ha la psicologia del classico Kulak», disse Ivan Nikolaevich, al quale si vede era saltato in mente di smascherare Ryukin, «anzi, del Kulak che fa di tutto per camuffarsi da proletario. Guardate quella sua faccia ipocrita e confrontatela con le poesie altisonanti che ha scritto per il 1° maggio, eh? Garrite, vessilli e sprofondate, nemici, ma guardategli dentro che cosa pensa e resterete di sasso». E Ivan Nikolaevich scoppiò in una risata sinistra. Ryukin aveva il respiro pesante, era rosso e pensava solo che si era scaldato una serpe in seno e che era stato premuroso con uno che, alla prova dei fatti, si era rivelato un nemico acerrimo. Il peggio è che non si poteva farci nulla. Mica si discute con un malato di mente. «E perché mai l'hanno portato qui?» chiese il medico dopo aver ascoltato con attenzione l'invettiva di B.S. Domini. «Il diavolo se li prenda, quegli scimuniti! Mi hanno preso, legato con degli stracci e portato qui su un camion!» «Posso chiederle come mai è andato al ristorante con la sola biancheria intima addosso?» «Niente di strano!» rispose Ivan. «Sono andato a fare un bagno nella Moscova e mi hanno fregato i vestiti, lasciandomi questa robaccia. Non potevo mica girare per Mosca nudo! Mi sono infilato quello che c'era, perché avevo premura di arrivare al Gribajedov!» Il medico guardò con espressione interrogativa Ryukin, che borbottò tetro. «Si chiama così il ristorante?» «Ah!» disse il medico. «E perché aveva tanta premura?» «Un appuntamento d'affari?» «Devo acciuffare il consulente», rispose Ivan Nikolaevich e si guardò intorno preoccupato. «Che consulente?» «Lei conosce Berlioz?» chiese Ivan con fare significativo. «Chi? Il compositore?» Ivan perse la calma. «Ma che compositore d'Egitto?» «Ah, sì! No, no, il compositore è un omonimo di Misha Berlioz!» Ryukin non aveva voglia di parlare, ma fu costretto a spiegare. «Il segretario del Massolit Berlioz è stato schiacciato da un tram questa sera ai Patriarcie.» «Non inventare quello che non sai», inveì Ivan contro Ryushkin. «Lì c'ero io, non tu. L'ha fatto andare apposta sotto il tram. Gli ha dato una spinta.» «Che c'entra la spinta?» esclamò Ivan infuriandosi per la stupidità generale. «Uno come lui non ha bisogno di spingere. Può giocare certi tiri che ti lasciano a bocca aperta. Sapeva in anticipo che Berlioz sarebbe finito sotto il tram.» «Oltre a lei, qualcuno ha visto questo consulente?» «È lì il guaio! Solo io e Berlioz!» «Ah, capito. E che misure ha preso per catturare l'assassino?» Il medico si voltò e lanciò un'occhiata a una donna in camice bianco, seduta a un tavolino appartato. Quella prese un foglio di carta e cominciò a riempire le parti in bianco delle varie voci. «Che misure? Ho preso un cero in cucina!» «Questo?» chiese il medico, indicando il cero rotto che giaceva sul tavolino davanti alla donna, insieme con l'icona. «Proprio questo? E l'icona? A che serve?» «Ah, già l'icona!» Ivan arrossì. «È stata proprio l'icona a spaventarli più di tutto!» Puntò di nuovo il dito verso Ryukin. «Ma il fatto è che lui, il consulente, parliamoci chiaro, ha legami con il diavolo e non sarà tanto facile prenderlo.» Gli infermieri, chissà perché, si misero sull'attenti e non distolsero più gli occhi da Ivan. «Già!» proseguì Ivan. «Ha dei legami. È un fatto sicuro. Ha parlato personalmente con Ponzio Pilato. Non è proprio il caso di guardarmi così. Dico la pura verità. Ha visto tutto. E il balcone, e le palme. Insomma, è stato da Ponzio Pilato, ve lo garantisco io.» «Già, già. Allora io mi sono attaccato l'icona sul petto e sono corso via.» L'orologio batté due colpi. Esclamò Ivan e s'alzò sul divano. «Sono le due e io sto a perdere tempo con lei. Scusi, scusi, dov'è il telefono?» «Lasciatelo telefonare», disse il dottore agli infermieri. Ivan afferrò il ricevitore, mentre la donna chiedeva con voce sommessa a Ryukin: «È sposato?» «Scapolo», rispose Ryukin impaurito. «Scritto al sindacato?» «Sì, sì.» «Polizia!» gridò Ivan al telefono. «Polizia! Compagno poliziotto! Disponga subito che mandino 5 moto con mitra per prendere il consulente straniero.» «Come?» «Mi passino a prendere, li accompagnerò io stesso. Parla il poeta Besnomni dal manicomio.» «Qual è il vostro indirizzo?» sussurrò al medico, coprendo il ricevitore con la mano, e poi gridò di nuovo. «Mi sentite? Pronto?» «Ma è una vergogna!» urlò di colpo e sbatté il ricevitore contro il muro. Poi si voltò verso il medico, gli tese la mano e disse seccamente: «Arrivederci!» e si accinse ad andarsene. «Per carità, ma dove vuole andare?» disse il medico fissando Ivan negli occhi. «È notte inoltrata, con addosso solo la biancheria. Lei non sta bene. Resti da noi.» «Fatemi passare!» disse Ivan agli infermieri che si erano messi in fila serrata vicino alla porta. Mi fate passare, sì o no?» urlò il poeta con voce terribile. Ryukin cominciò a tremare, mentre la donna premette un pulsante sul tavolino, sulla cui superficie di vetro balzò fuori una lucida scatoletta e una fiala sigillata. «Ah, è così?» proferì Ivan sbalordito, guardandosi in giro come un animale braccato. «Ah, sì, eh?» «Tanti saluti!» e si buttò a capofitto verso la tenda della finestra. Vi fu un rumore piuttosto forte, ma il vetro dietro la tenda non si incrinò nemmeno, e un attimo dopo Ivan Nikolaevich si dibatteva nelle braccia degli infermieri, rantolava, cercava di mordere, gridava: «Vi siete messi dei bei vetri, eh? Lasciatemi, lasciatemi!» Una siringa luccicò in mano al medico. La donna squarciò con un solo colpo la logora manica del camiciotto e gli afferrò il braccio con una forza tutt'altro che femminile. Si sparse un odore di etere. Ivan perse la forza nella stretta di quei quattro e, agile, il medico ne approfittò per infilargli l'ago nel braccio. Lo tennero fermo ancora per qualche secondo, poi lo adagiarono sul divano. «Banditi!» urlò Ivan e balzò su dal divano, ma poi vi fu riposto. Non appena lo lasciarono, balzò in piedi di nuovo, ma si risedette da solo. Tacque, guardandosi intorno con un certo stupore, poi sbadigliò all'improvviso, poi sorrise con rabbia. «L'avete fatta a rinchiudermi?» disse. Sbadigliò ancora, si distese di colpo, poggiò la testa sul cuscino, infilò il pugno sotto la guancia come un bambino e borbottò con voce insonnolita, senza più rabbia. «Tanto meglio, la pagherete voi. Io vi ho avvertiti, adesso arrangiatevi. Quanto a me, quello che mi interessa di più adesso è Ponzio Pilato. Pilato». E chiuse gli occhi. Un bagno. La 117 singola, sotto sorveglianza, ordinò il dottore mettendosi gli occhiali. E qui Ryukin sussultò di nuovo. Silenziosamente si era aperta una porta bianca, oltre la quale si vedeva un corridoio illuminato dalle azzurre lampadine notturne. Dal corridoio giunse una lettiga su ruote di gomma. Vi deposero Ivan, che, addormentato, partì verso il corridoio e dietro gli si richiuse la porta. «Dottore», sussurrò Ryukin, sconvolto, «è proprio malato?» «Eh sì», rispose il medico. «E che cos'ha?» chiese Ryukin timidamente. Stanco, il medico guardò Ryukin e rispose fiacco: «Ipereccitabilità motoria e logorrea, interpretazioni deliranti, sembra un caso difficile, schizofrenia, immagino, e per di più l'etilismo». Ryukin non capì nulla di quello che diceva il medico, salvo che le cose per Ivan Nikolaevich si mettevano piuttosto male. Sospirò e chiese: «Perché parla sempre di un consulente? Boh, deve aver visto qualcuno che ha colpito la sua immaginazione sconvolta, o forse si tratta di un'allucinazione». Alcuni minuti dopo, il camion riportava Ryukin a Mosca. Alveggiava e la luce dei lampioni ancora accesi lungo le strade non era più necessaria e dava fastidio. L'autista, arrabbiato per aver perso la nottata, andava a tutta velocità e la macchina sbandava in curva. Superarono il bosco, che rimase alle loro spalle, e il fiume scomparve in un'altra direzione. Incontro al camion si riversavano le cose più diverse: steccati con garritte e cataste di legna, pali altissimi e antenne coronate di bobine, mucchi di pietrisco, campi solcati da canali. Insomma, si sentiva che Mosca era lì, subito dopo la curva, e che ti sarebbe subito venuta addosso per inghiottirti. Ryukin era scosso e sballottato in ogni direzione e il tronco sul quale si era seduto tentava a ogni istante di scivolar via. Gli asciugamani del ristorante, che erano stati buttati sul camion dai poliziotti, correvano per tutto il cassone. Ryukin voleva raccoglierli, ma dopo aver detto fra i denti: «Ma vadano alla malora, perché devo affannarmi come un cretino?» li respinse con un calcio e smise di guardarli. Il suo stato d'animo era spaventoso. Era chiaro che la visita a quel tristo asilo aveva lasciato in lui una traccia profondissima. Ryukin cercò di capire che cosa lo tormentasse. Il corridoio con le lampadine azzurre che non gli usciva di mente? O forse il pensiero che non esiste al mondo disgrazia peggiore che perdere la ragione? Beh, sì. Sì, naturalmente c'entrava anche questo. Ma era pur sempre un pensiero troppo generico. C'era dell'altro. Che cosa? L'offesa. Ecco che cos'era. Sì, sì, le parole offensive lanciategli in faccia da Biesdomni. Il guaio non era che fossero offensive, ma che in esse vi fosse una parte di verità. Ora il poeta non si guardava più intorno, ma fissando il fondo sporco del cassone sconquassato, cominciò a borbottare, a lagnarsi e a rodersi. Sì, le poesie. Aveva 32 anni, davvero, che futuro aveva? Anche in futuro avrebbe scritto qualche poesia all'anno, fino alla vecchiaia, eh? Sì, sì, fino alla vecchiaia. Che gli avrebbero fruttato quelle poesie? La gloria? Ah, che assurdità. Non ingannare almeno te stesso. La gloria non verrà mai a chi scrive brutte poesie. Perché sono brutte? Ha proprio detto la verità, si diceva spietato Ryukin. Non credo in nulla di quello che scrivo. Un quarto d'ora dopo Ryukin se ne stava solo, rattrappito sopra un piatto di pesce, e beveva un bicchierino dopo l'altro, comprendendo e riconoscendo che nella sua vita ormai non si poteva correggere nulla e altro non restava che dimenticare. Mentre gli altri facevano baldoria, il poeta aveva sprecato la sua notte e adesso capiva che recuperarla era impossibile. E bastava alzare la testa dalla lampadina e guardare il cielo per capire che la notte era irrevocabilmente perduta. Con gesti veloci i camerieri strappavano le tovaglie dai tavoli. I gatti, che scorrazzavano presso la veranda, avevano un'aria mattutina e sul poeta cadeva irrefrenabilmente il giorno. Massimo Popolizio ha letto Il Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante. Con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.